America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Apro subito con una notizia d'altri tempi. In teoria 10 spie russe sono state arrestate in America. Beh, d'altri tempi perché? Beh, perché abbiamo visto l'altro giorno proprio qui a Washington Dmitry Medvedev e Barack Obama in grande amicizia, si sono poi rivisti a Toronto per il vertice del G8 G20 e dunque fra Stati Uniti e Russia c'è una situazione di assoluta armonia, con l'eccezione di questa curiosità. Queste spie in realtà lavoravano da anni, erano state addestrate dai russi. C'è un messaggio che è stato preso dagli inquirenti in cui si dice: voi siete stati mandati in America per un viaggio di servizio di lungo termine, di lunghissimo termine. Che cosa facevano queste spie? Beh, avevano l'incarico di penetrare il tessuto americano e riferire qualunque cosa di un certo interesse a Mosca. Oggi rischiano 20 anni di prigione ciascuno. E passiamo invece a quella che è stata ieri un po' la notizia dominante attorno alla Corte Suprema. Cominciamo con l'audizione di Elena Kagan, nominata da Barack Obama alla Corte Suprema. My parents lived the American dream. My mother didn't speak a word of English until she went to school, but she became a legendary teacher. Ecco perché vi faccio sentire la voce di Elena Kagan, che ha appena iniziato le audizioni di conferma per la sua nomina alla Corte Suprema, audizioni appunto al Senato americano. Perché intanto c'è stata un po' di polemica, ci sono alcuni senatori che sono un po' sospetti, dicono che la Kagan è sempre stata molto attivista, un'attivista politica, e dunque si domandano come possa conciliare questo suo attivismo politico con il ruolo di un giudice. Beh, la Kagan ha poi risposto, ha detto che secondo lei un giudice deve essere appunto molto equilibrato, che da parte sua non ci saranno sbavature di alcun genere. Ma perché l'America segue con questa attenzione questa audizione di Elena Kagan? Perché la Corte Suprema americana è davvero un'istituzione fondamentale per la formulazione di una, anche di una certa psicologia socio-mentale del paese, degli Stati Uniti d'America. I 9 giudici danno interpretazioni su tutti gli articoli della Costituzione e intervengono su argomenti più vari, ma in questo caso, ieri in particolare, sono intervenuti su 3 questioni. Una che riguarda la legge Sarbanes-Oxley, lo ricorderete, questa fu una legge approvata quando ci fu una delle prime crisi. La seconda sentenza della Corte Suprema di ieri riguarda il Vaticano e la terza riguarda il porto d'armi. Cominciamo dalla prima, la Sarbanes-Oxley. Ecco, la Sarbanes-Oxley, vi dicevo, una legge importante del 2002 che introduceva l'idea di separare le attività di consulenza da quelle di revisione, ad esempio per le società di revisione contabile. Aveva anche creato un consiglio di controllo per la revisione societaria, una specie di agenzia di supervisione che doveva controllare le attività delle agenzie di revisione. Ebbene, secondo la Corte Suprema, l'introduzione di questo consiglio ha violato i principi costituzionali di separazione dei poteri. Perché? Beh, perché la nomina dei membri dell'organismo spetta soltanto alla Security Exchange Commission, alla SEC, cioè l'organo di controllo di borsa, e questi consiglieri possono essere soltanto rimossi dalla Security Exchange Commission. Ecco, l'idea naturalmente era che questo board, che questo consiglio fosse un'emanazione della SEC, così come ad esempio l'Agenzia per l'aiuto dei consumatori è un'emanazione della Federal Reserve, l'Agenzia per la protezione dei consumatori che fu annunciata nel contesto della riforma del sistema finanziario americano. Quindi con questa sentenza si creano dei principi che potrebbero avere delle ramificazioni più ampie. Comunque sia, questo consiglio è stato annullato dalla Corte Suprema e a questo punto qualcuno dice forse si apre la strada per che in Parlamento si vada contro questa legge per la riforma contabile, che secondo alcuni era comunque troppo rigida per il mondo degli affari. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso di non bloccare un processo contro il Vaticano. Il Vaticano era arrivato fino alla Corte Suprema per cercare di bloccare una causa in cui la Chiesa Cattolica Romana era accusata di aver trasferito di parrocchia in parrocchia il sacerdote Andrew Ronan, un sacerdote irlandese, nonostante i ripetuti casi di pedofilia segnalati a suo carico. Ronan fu trasferito con l'approvazione dell'allora prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, Joseph Ratzinger, e dunque diventava questo un caso di un certo interesse, certamente delicato. Qual è l'aspetto interessante? Che dei 9 giudici, 6 sono cattolici, quindi non si può dire che ci siano, diciamo, delle prevenzioni, e sono stati tra l'altro proprio in gran parte questi giudici cattolici della Corte Suprema ad aver respinto il ricorso del Vaticano. A questo punto si andrà avanti con questo processo, e in tutto questo c'è una figura chiave con cui Daniela Roveda, che si è occupata appunto ieri di questa vicenda, ha parlato. Buongiorno Daniela. Ciao Mario. Raccontaci con chi hai parlato ieri. Ieri ho parlato con l'avvocato Jeff Anderson, il legale dell'individuo anonimo che ha fatto causa contro il Vaticano, e che è un personaggio straordinario, forse il responsabile di avere aperto tutte le porte all'ondata di cause contro i preti pedofili negli Stati Uniti. Anderson per la prima volta fece causa a nome di un cliente nel 1983 contro un prete del Minnesota, e mi ha raccontato che la sua crociata iniziò all'epoca quando si accorse che il vescovo della diocesi del Minnesota aveva commesso spergiuro cercando di difendere questo prete colpevole di avere molestato bambini per 25 anni nella sua parrocchia. Anderson mi ha detto di essere estatico per la sentenza della Corte Suprema, ed è sicuro che giustizia prevarrà finalmente nei tribunali americani. The U.S. Supreme Court heard an important argument today over state and local gun regulations. Ecco la terza sentenza sul porto d'armi, una sentenza che così ci fu in passato dalla Corte Suprema, che ha sempre autorizzato il porto d'armi per tutti e ha difeso la validità del cosiddetto secondo emendamento alla Costituzione. In sostanza la Corte Suprema ha stabilito ieri che il diritto all'autodifesa è un diritto basilare, e dunque le attività di alcune città o di alcuni stati che cercano in qualche modo di limitare il porto d'armi, che è un problema endemico, lo sappiamo, non soltanto per la criminalità ma per quello che succede nei campus universitari, abbiamo visto quante tragedie si sono consumate. Ebbene, questo non basta per la Corte Suprema, il diritto, fra virgolette, alla libertà di portare le armi è più importante. Da dove deriva tutto questo? Dal secondo emendamento della Costituzione, costruito dai padri fondatori in un momento in cui l'Unione Federale Americana, il sogno dell'Unione Federale Americana, era ancora piuttosto fragile. Per questo si passò questo emendamento, per far sì che le famiglie potessero tenere delle armi in casa, di modo che nel momento in cui ci fosse stato un contrattacco inglese, queste famiglie potevano poi riorganizzarsi in delle milizie, avevano già le armi e quindi erano autorizzate a tenerle. Questo problema oggi non sussiste, ovviamente, però sono intervenuti altri interessi, gli interessi delle lobby delle armi, e gli interessi della destra repubblicana, e dunque si è sviluppato un dibattito ideologico in cui, secondo me, è sbagliato, perché non esiste, non sussiste più il problema. Però quel che conta è il parere dei giudici e il loro parere, che lascia l'impronta sulla società americana, e secondo loro questo porto d'armi alla fine è un diritto inalienabile. Bene, un'ultima cosa in finale. Morto il senatore Byrd, 92 anni, un personaggio leggendario, controverso, democratico, ma fu nel Ku Klux Klan. Ma purtroppo non abbiamo tempo, cercherò di raccontarvela domani. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. Una curiosità di ieri: 3 radiografie del busto di Marilyn Monroe sono state vendute all'asta per $45,000. Dedichiamo a lei questa canzone di Elton John, Candle in the Wind. La scrisse per lei, poi la rivide per dedicarla a Lady Diana. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.